Durante l'impero romano, nel secondo o terzo secolo, non si cominciò a festeggiare questa festa, la festa del sole invitto. Fu Elio Gabolo che lo portò naturalmente dall'Oriente, no? E divenne una festa nazionale. Fu Costantino, tra l'altro, credo nel 321, a dichiarare il Natale una festa nazionale, lo dichiarò il sole, quello che ancora oggi in inglese si chiama Sunday, no? Cioè quello che noi chiamiamo domenica. E qualche anno dopo, credo verso il 350, Giulio I se ne appropriò ovviamente, no? E decise che quello, invece di essere Natale del sole, era il Natale di Gesù Cristo. Allora Alberto, tu che hai quattro figli, insomma Pier Giorgio Di Freddi ti ha dato tanti stimoli, quali di questi trasferirai oggi a casa? Ma no, stavo riflettendo su questo, nel pensiero proprio di Pier Giorgio Di Freddi c'è una visione laica, da non credente come lui ha affermato, della vita, ma c'è una dimensione che è la spiritualità, che non necessariamente si declina in modo religioso. Come la trova, come la coltiva, come la riconosce, se la riconosce Pier Giorgio Di Freddi nella sua vita? Con parole più che mie, che sarebbero poco significative, con quelle di Albert Einstein, che sosteneva che in realtà oggi gli uomini, in questo mondo così materialistico, no, così disinteressato a tutte le questioni alte, i veri esseri spirituali sono gli scienziati. Lui diceva i soli addirittura, no? Forse non so. Forse era un po' di parte, no? Forse era un po' di parte, però in realtà Einstein era un uomo molto spirituale. Lui dichiarava di credere nel Dio di Spinoza, cioè la natura, per l'appunto, no? Quindi questi fenomeni, così come anche queste festività natalizie, lui l'avrebbe, credo, interpretata in maniera analoga, no, a quelle che ho detto poco fa. Però certo, la spiritualità e la religiosità sono due cose completamente diverse. Si può essere religiosi senza essere spirituali, e viceversa, si può essere spirituali senza essere religiosi, no? Io credo che appunto la spiritualità per me è un fenomeno positivo, no? Se significa, per l'appunto, no, avere per esempio una percezione del proprio ruolo nel mondo, sapere che non siamo i re della natura, sapere che siamo una piccola cosa di un qualche cosa di molto più grande che ci sovrasta e che in realtà ci domina, no? Questo è l'atteggiamento spirituale. Io non accetto semplicemente le trasformazioni di questa spiritualità in mitologia, come ho detto poco fa. Allora, voleva intervenire la nostra mamma, una, sì, delle nostre mamme, prima dei mercati. Buongiorno, Veronica. Professore, ma infatti quello che lei diceva... Mette un po' di soggezione. E beh, insomma, io certo, lo seguo, quindi sì, lo conosco, mi tutte fa anche piacere parlargli. Un po' soggezione. Bene, andiamo. No, volevo dire che cito malissimo, ma mi ricordo, per rimanere nel campo di Einstein, io pensavo che il professore citasse questa cosa, che infatti Einstein diceva: più che credere in Dio, penso che sono in una libreria in cui i libri sono disposti in un determinato ordine, e questo ordine ci è un po' sconosciuto, e mi sembrava, mi corregga professore se dico giusto, mi sembrava che lui desse questa interpretazione del divino, no? Nel mondo. Cioè, io non mi permetto di correggere, soprattutto se dice giusto, ma in realtà lui sosteneva che la cosa veramente miracolosa, cioè quella che veramente ci fa sospettare, no? È che certo che c'è un ordine, ma diceva l'ordine non è come quello della guida telefonica, in cui noi mettiamo per esempio i nomi in ordine alfabetico, ma è un ordine convenzionale, cioè imposto da noi, no? Nel caos, diciamo così, no? Di tutti i nomi. In realtà l'ordine che noi troviamo nella natura è un ordine che ci appare oggettivo e non soggettivo, è qualche cosa che per l'appunto resiste, diciamo così, no? A noi, esattamente come gli oggetti della realtà esterna. Quindi è per questo che Einstein poi credeva, per l'appunto, no, nell'ordine dell'universo, che tra l'altro poi, se lo traduciamo in greco, diventa logos, e alla fine ecco che qui forse c'è un punto di contatto anche con altri tipi di approccio alla visione del mondo, perché il logos poi era quello che gli stoici, per l'appunto, cercavano nel mondo, e che poi l'Evangelista Giovanni insomma, se ne appropriò, no, e iniziò in quel modo il suo quarto Vangelo. Allora, io volevo salutare Pier Giorgio Di Freddi e il dottor Valzania. Dottor Valzania, ci lasci con lei, con un augurio. A buon Natale, che augurio si può fare? E dove buon Natale significa un momento anche per pensarci, perché poi queste sono il senso di queste liturgie, di tutto della liturgia di tutto l'anno, è quello di pensare a queste cose, cioè sono una serie di doni di Dio, tecnicamente, che ti offrono e ti stimolano un'occasione di pensiero, per cui anche la trasmissione questa in questo momento dipende dal fatto che la liturgia ci riporta il Natale e quindi ci fa pensare a queste cose e ci fa chiedere, per esempio a Odifreddi, di riflettere su che cos'è la spiritualità, la religione, che poi sono anche solo parole, però, ma sono un modo per appunto rendere più ricca la vita. Io ringrazio il dottor Valsania per essere stato con noi, un grazie anche a Pier Giorgio Di Freddi. Io vi ricordo La Via Lattea, un libro a cui Alberto Pellai ed io abbiamo messo il bollino blu, Longanesi editore, leggetela, si può leggere sempre, secondo me in questo momento dell'anno è da leggere in modo particolare. Grazie, noi andiamo a sentire le notizie, ci sono i mercati, il meteo, forse degli aggiornamenti, a tra poco. Essere e benessere. Siamo tornati insieme, riflessioni sul Natale, sulla spiritualità, perché oggi accantoniamo per un attimo i pacchetti, le liste dei regali, i festoni. Vogliamo proprio chiederci insieme se questo giorno può essere un'occasione per parlare di spiritualità con i nostri figli. E parlo di spiritualità, una dimensione che può essere esplorata e presidiata anche da chi non è credente. Intanto vi invito a partecipare all'iniziativa Il Consiglio di Lettura, vi invito quindi a mandarci via SMS al 349-238-6666 cosa e come raccontate il Natale ai vostri bambini o come è stato raccontato a voi. L'SMS verrà scelto naturalmente dalle mamme oggi qua presenti, Yolanda e Veronica, e l'SMS prescelto avrà in regalo a casa l'agenda della filosofia 2001, un anno per pensare. 800 24 00 24, spazio alle vostre telefonate, raccontateci il vostro Natale, raccontateci che cosa state facendo per mantenere, ritagliare, far crescere in mezzo a tutta questa frenesia del regalo, del consumismo, un angolo, io mi auguro un pochino più di un angolo, proprio di spiritualità e di religiosità. Aldo da Udine, buongiorno. Buongiorno, grazie. Io volevo raccontare la nostra esperienza di famiglia con tre figli di 13, 11 e 8. Anche se i due grandi sanno che sono i genitori, i zii, sì, nonni, sì. Beh, però guardi, noi abbiamo magari dei bambini magari che fanno le compre con le loro mamme in macchina adesso, per cui noi aspettiamo Babbo Natale, noi eccetera. Prendiamo l'albero normalmente per i primi giorni di Natale, ma parliamo sempre dello spirito del Natale, quindi noi genitori con i figli un momentino dopo, cioè, facciamo una letterina, scriviamo due righe di cosa vogliamo, come siamo stati e come vorremmo essere. E fino a poco fa questa letterina la legavamo a un cordoncino con un palloncino pieno di elio, si andava in famiglia e si lasciava di sera che andasse a raggiungere lo spirito del Natale, perché non è Natale per noi bambino Gesù che porta i regali, i re magi o la Santa Lucia, è proprio lo spirito di stare assieme, di mettere sull'alberello assieme col presepio, ma di stare quei 10-15 minuti per giorno e stare assieme come famiglia, ecco, e quella è la nostra esperienza. Pure i due grandi, sapendo che sono i genitori che portano i regali, continuano a parlare con la sorella piccola dello spirito del Natale, che è lo spirito che ci fa sentire anche meglio e che ci fa crescere come persone, ecco. Grazie ad Aldo da Udine, buon Natale. 800 24 00 24, abbiamo anche il nostro profilo Facebook 349-238-6666 se volete partecipare al nostro all'iniziativa Il Consiglio di Lettura di oggi in collaborazione con IBS. Yolanda, tu che cosa stai facendo? Infatti queste cose che raccontava Aldo mi fanno venire in mente che è proprio quello che su cui giochiamo, diciamo, anche noi in casa, cioè arriva il Natale, i primi di dicembre, ci si mette lì, si fa l'albero, si sta insieme, i bambini anche poi... già fare l'albero o il anche presepe, proprio esatto, l'albero. Proprio il presepe, proprio stare insieme, si tira fuori, si cerca un momento in cui siamo tutti lì e si fa l'albero. Magari all'inizio diventa un po' le palline tutte da una parte perché sono più piccoli, per cui non arrivano fino in cima, però pazienza, è la festa della famiglia, ma è proprio insieme. Un po' dell'amore, della condivisione. Poi adesso quella più grande magari ritaglia lei delle cose, fa delle cose lei insieme al più piccola, quindi insomma è proprio anche una collaborazione, proprio stare insieme in famiglia, ecco. Abbiamo, ci ha raggiunto in linea il professor Giampaolo Perna, buongiorno. Buongiorno Nicoletta e a tutti gli ascoltatori. Direttore scientifico e primario presso la Casa di Cura San Benedetto dal Base con Cassano e professore all'Università di Maastricht in Olanda. Professor Perna, parlare di religiosità e di spiritualità, inserire queste due parole, queste due dimensioni nella vita di un adulto che si fa un po' maestro, lo insegna anche ai bambini, e lei lo spiega bene nel suo libro Psicofitness, è un modo di preservare anche il nostro benessere. Assolutamente sì, Nicoletta, devi sapere che quello che era una saggezza popolare è diventata anche una saggezza scientifica, cioè esistono ormai molte dimostrazioni che portano a considerare la spiritualità come uno degli strumenti per il benessere. Ci sono delle pratiche meditative, ma addirittura si è visto anche per esempio la recita del rosario in latino, che sono capaci di sincronizzare e far funzionare il nostro corpo e la nostra mente in maniera ottimale. Quindi veramente è uno strumento in più, non è semplicemente un credo, ma è un qualcosa di più, perché entra nel corpo, entra nella mente e ridona quel livello di benessere di cui tutti abbiamo bisogno. Alberto. Sì, io penso anche che serva proprio alzare proprio lo sguardo al cielo, serva moltissimo ai nostri figli, al di là del credo religioso, ma vedere nella spiritualità una potenzialità per non stare sempre nel qui ed ora, nel materiale. Tra l'altro i bambini poi tra i 4 e i 6 anni per esempio sono davvero pieni di domande che vanno al di là del qui ed ora, nel momento in cui vogliono sapere da dove vengono, vogliono anche sapere dove andranno a finire, spesso si interrogano su cose molto profonde come il senso della vita, la morte. Un adolescente effettivamente sguarnito di qualsiasi capacità di pensare a se stesso anche in una prospettiva spirituale rimane effettivamente molto più vulnerabile, credo, di fronte alle tempeste della vita che lo stanno accogliendo. Per cui secondo me tenere aperta questa visione in cui l'uomo sente, come diceva anche Odi Freddi, di essere relativo nella vita che gli è, che comunque gli è data in dono da vivere, credo sia uno di quei passaggi che ci aiuta ad essere genitori migliori e soprattutto anche genitori in ascolto del molto che hanno da dire i nostri figli, perché una delle cose come che diceva, mi colpisce, Valzania, sono i bambini che raccontano hanno uno Natale. Sguardo spirituale sulla vita, ed è fondamentale per noi mamma e papà cercare di conservarlo il più possibile anche se non siamo dentro a un credo religioso, perché davvero un fiore, un albero, il sole, la luna e le stelle per i bambini non sono semplici oggetti, ma sono testimonianze. E Marco al 349-238-6666 ci scrive: perché si parla di spirito natalizio e non si estende questo spirito tutto l'anno? Ecco, naturalmente non è limitante, è limitativo, e sarebbe anche così contro il nostro benessere limitarci solamente a considerare la spiritualità solo in occasione del Natale e poi buttare via la chiave. Ma forse proprio in questi momenti, quando la vita ci prende, ci porta sempre lontano a pensare altro, ci sono momenti nell'anno in cui è più facile, quasi doveroso, istintivo mi verrebbe da dire, fermarsi e fare una riflessione, e quindi questa è un'occasione da cogliere al volo. Professor Perna. Ma ti dirò anche semplicemente su alcuni aspetti pratici della vita, per esempio chi è particolarmente religioso e spirituale ha uno stile di vita sano. Pensate che mangiare con moderazione, l'uso degli alcolici moderato, ha una capacità di socializzare importante, è un gruppo in cui stare, no? È una persona che ha una visione umile della vita, quindi in qualche maniera contrasta con quella visione narcisista che molte spesso abbiamo, incarna dei valori e in un certo senso anche il non eccedere con i partner diventa un elemento centrale. Quindi diciamo che proprio lo stile di vita di chi è spirituale e religioso favorisce il benessere, questo è un primo punto. Questo ovviamente considerando ricordando tutte le cose importanti che abbiamo detto. È chiaro che vedere qualcosa al di là permette di avere un punto di vista che va oltre l'uomo, e questo aiuta tutti noi a essere molto sereni. Però ricordatevi, fa bene al corpo e fa bene al cervello. Non è solo una questione di religiosità o di valori, ma di benessere psicofisico. Abbiamo Paolo che ci chiama dalla provincia di Chieti, che voglio salutare. Paolo, buongiorno. Ciao, buongiorno, ciao, salutoni da Lanciano. Ah, bene, allora Paolo, venga con me, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, torniamo subito dopo insieme. 800 24 00 24, facciamoci gli auguri di Natale raccontandoci come stiamo vivendo il Natale. Che dite? Vi aspetto. Essere e benessere. Il nostro Natale qui a Essere e Benessere a Radio 24, 800 24 00 24. Come coltiviamo quella dimensione spirituale e religiosa che questa festa ci porta istintivamente, forse anche gli altri che stanno accanto a noi ci invitano a farlo, a considerarla. Vi aspetto le vostre telefonate, i vostri messaggi, e Alberto sollecitiamo, se ne stanno arrivando tante già di descrizioni di come gli adulti raccontano al Natale, al 349 238 6666 in collaborazione con IBS, il libro di oggi. È l'agenda della filosofia 2011, un pensiero al giorno. Scriveteci che cosa costruisce il Natale in senso spirituale da voi. E intanto, intanto che Alberto si sta soffocando, io do la linea a Paolo. Paolo, buongiorno, ribuongiorno. Sono un po' preoccupata perché non abbiamo neanche un po' d'acqua e vedo Alberto Pellai, però lui è medico e se Alberto tutto bene, sì. Ok, Paolo. Ok, se no avevamo un soffocamento in diretta ed era una cosa un po'... Allora, volevo raccontarvi una splendida tradizione che è in uso qui a Lanciano da centinaia di anni, che il 23 di dicembre dalle 7 di sera alle 8 di sera c'è la squilla, una campanellina che suona ininterrottamente a Lanciano, nel campanile della piazza principale, piazza Plebiscito, per un'ora, ed è la campanellina della riappacificazione, la chiamano, perché Lanciano nei tempi antichi fu sempre oggetto di guerre con popoli vicini o piuttosto con i turchi, no? E questa data era particolarmente attesa perché era la data della riappacificazione tra famiglie, che nel corso dell'anno avevano avuto dei... ed era il momento in cui i bambini cominciavano il Natale, l'albero di Natale con i regalini si cominciavano ad aprire la sera del 23, perché si andava a salutare i nonni, dai più giovani ai più anziani, ed era consuetudine baciare la mano all'anziano, era una forma di rispetto proprio alla tradizione. È una tradizione bellissima che tuttora tutti i lancianesi si danno appuntamento, o da Milano, da Pordenone, da Venezia, piuttosto che da Firenze. Non si dice ci vediamo a Natale, ci vediamo alla squilla a Lanciano per farci gli auguri e riabbracciarci. Chissà, e i bambini. Chissà, i bambini, qualche nostro ascoltatore Paolo sta preparandosi per trovarsi alla squilla. Gli chiediamo di intervenire. Sia un tam tam adesso, sia un tam tam mediatico, no? Grazie Paolo, io non la sapevo. Conoscevate voi? No, però è molto molto bella. Molto bella. Sì. Si dovrebbe esportare, Paolo, che dice? Una tradizione che troverete anche nelle poesie dei nostri poeti lancianesi, tipo Cesare Faggiani, oppure piuttosto che altri, trovate traccia di questa squilla, la famosa squiglia in dialetto di Lanciano. Grazie a Paolo. Allora usiamo anche noi questo campanellino, che le persone del paese che facevano pace, Natale è anche un'occasione, no? Per rappacificarsi. Yolanda. Veronica. Ho letto recentemente, non mi ricordo dove, che l'ultimo trend del momento è la festa di Natale condominiale, tra l'altro. La squilla mi ha fatto venire in mente, no? Sì. Che viviamo la nostra spiritualità monofamiliare, poi non salutiamo neanche i vicini di casa. Sarebbe carina la squilla del condominio con i citofoni. Sì. Il mio cane abbaierebbe come un matto, per cui mi caccerebbero, non mi farebbero andare a partecipare alla squilla. Elisabetta da Venezia, buongiorno. Buongiorno, niente, io telefono non per raccontare ma per chiedere, nel senso, io sono sposata, ho 40 anni e non ho bambini. Sì. E un po', non avendo bambini, si perde un po' il senso del Natale, della spiritualità. Sì. Nel senso che quando eri tu bambina era la mamma, i genitori che ti preparavano e tutto, adesso essendo due adulti un po' abbiamo perso e io sento questa mancanza. E volevo chiedere ai suoi ospiti, a lei, quale potrebbe essere un suggerimento per ritrovare qualcosa da fare, per ritrovare appunto questo spirito speciale che c'è in questo periodo dell'anno. Io un'idea ce l'avrei, ma vedo che già ci sono Yolanda e Veronica che agitano il ditino, quindi il passo, e poi se c'è tempo le dico anche la mia, se no si mi manda una mail e gliela scrivo. Yolanda. Ma secondo me nel momento del Natale, poi chiaramente da fare tutto l'anno, ma insomma intorno a Natale è forse il momento buono per cominciare, è fare del volontariato, perché in realtà c'è sempre tanto bisogno, anche se magari uno non ci pensa e al di fuori di queste questioni, in realtà riuscire a fare del volontariato, c'è sempre bisogno di una mano, qualcuno che ha bisogno c'è comunque, basta guardarsi intorno e questo ti aiuta spiritualmente. Veronica? Avrei detto esattamente la stessa cosa, poi ci sono anche delle, dipende dove abita la signora, a Venezia comunque, informandosi, ci sono anche delle associazioni che proprio si occupano di avvicinare gli adulti al mondo dei bambini attraverso dei corsi mirati per fare il tutor anche. Alberto. Tre idee veloci. Una è andare a visitare insieme un presepe vivente, se si vuole stare proprio nella parte. La seconda è, ci sono tantissime famiglie come la mia che sognerebbero la visita di un vero e proprio Babbo Natale. Quindi abbiamo bisogno di Babbi Natale. Questa. E la terza invece, credo che ci sia anche un bisogno più profondo nella cosa che ci ha chiesto la nostra ascoltatrice. E direi, perché non scriversi una lettera in cui si dice proprio, nella nostra coppia vogliamo anche coltivare di più la dimensione della spiritualità, aiutami a farlo perché voglio farlo insieme a te. Ed è questa una parte che vorrei, questo aspetto vorrei indagarlo, approfondirlo rapidamente prima di leggere l'SMS che riceverà a casa il consiglio di lettura di oggi. Professor Perna, spiritualità nella coppia. Spiritualità nella coppia vuol dire esattamente ricordarsi che c'è l'altro. Questa sembra una frase fatta, troppo spesso nel correre ce lo dimentichiamo, quindi la giornata viene scandita dal lavoro, dalla televisione, da altre cose, quindi fermarsi un po' in silenzio in due, credo che sia un'esperienza importante che riporta la spiritualità nella coppia e vada oltre al fisico, oltre al cervello e se va in una dimensione diversa, quindi il concetto è state in silenzio insieme, sul divano se ci riuscite. Ecco, pregare anche insieme se una persona ha, direi, la fortuna, il privilegio di avere la fede, io penso che si preghi sempre meno in coppia. Vero. E invece pregare in famiglia e in coppia io trovo che attivi anche proprio delle relazioni che vanno al di là. Andiamo all'SMS perché abbiamo veramente 20 pochi secondi. Okay. non so fare le sottrazioni. Allora ce lo legge Veronica, vai. Allora, dunque, l'SMS prescelto è: quest'anno è il nostro primo figlio in arrivo a farci vivere lo spirito del Natale, l'attesa. Attesa di dare una nuova vita al nostro vivere quotidiano. Ce lo manda Sara. Ed è nata anche una speaker. Allora, salutiamo le nostre mamme, Veronica e Yolanda. Complimenti a Sara. Grazie al professor Perna per essere stato con noi. Torneremo sul tema della spiritualità. Perfetto, saluto a tutti. Integratore di benessere, come ci ha scritto un ascoltatore, Alfio. Alberto, noi ci salutiamo, abbiamo tante cose da fare, da dirci, da raccontarci, staremo insieme anche il 25, ma non voglio anticipare altro. A domani, grazie a voi di averci seguito, buona giornata.